Smart City, speciale Saie. Buonasera da Maurizio Melis, mi trovo a Bologna, al Saie, il Salone Internazionale dell'Edilizia, che ormai è la 48esima edizione, ma questa è un'edizione speciale perché arriva dopo il terremoto che pochi mesi fa ha scosso l'Emilia-Romagna facendo danni devastanti purtroppo. E allora quest'anno il cuore del Saie è dedicato alla sicurezza sismica, e così faremo anche noi di Smart City stasera e domani sera, a partire dai principali aspetti tecnici. Ne parliamo con il professor Marco Savoia, direttore del laboratorio CIRI Edilizia e Costruzione dell'Università di Bologna, che è il centro interdipartimentale che riunisce tutte le competenze dell'Università di Bologna per quanto riguarda l'antisismica e le costruzioni, le mette tutte insieme. Buonasera Savoia. Buonasera a voi. Dunque, vorrei con lei cercare di spiegare un po' quali sono le opzioni oggi esistenti per realizzare edifici antisismici, ma soprattutto per intervenire sul parco edifici esistente. Partiamo da qui. Quali sono le principali tipologie di intervento? Beh, certamente intervenire sulle costruzioni esistenti è per noi in Italia adesso la cosa più importante, perché ovviamente sono molte più le costruzioni esistenti sulle quali è necessario intervenire che non le costruzioni nuove che andranno realizzate. Edifici che quindi devono essere adeguati da un punto di vista sismico, ma non dimentichiamo sono state anche costruite per essere spesso energivore, e quindi è buona cosa intervenire in maniera complessiva per cercare di risolvere anche e migliorare le problematiche di tipo energetico. Su questo ci sono varie possibilità, varie tecnologie che sono a disposizione. Sicuramente bisogna suddividere innanzitutto come intervenire sulla struttura, cioè quello che sostiene il fabbricato, da tutto il resto, quindi da quello che è contenuto e quello che copre l'involucro appunto del fabbricato. Per quel che riguarda le strutture abbiamo varie tecnologie, in particolare segnalo sicuramente tra le più innovative e utilizzate, sulle quali in Italia c'è un'esperienza particolare, l'utilizzo di materiali compositi che sono usati per rinforzare le strutture in cemento armato. Come avviene questo rinforzo? Quando si deve intervenire, per esempio, sulle travi, sui pilastri si fasciano i pilastri, cioè si avvolgono questi materiali compositi con le fibre a fasciare in modo tale che il pilastro sia in grado di sopportare maggiore compressione e anche maggiore azione orizzontale che sono dovute al sisma. Poi c'è un secondo approccio che punta sull'alleggerimento invece degli edifici, mi spiegava prima. Sì, questo è un aspetto fondamentale, perché l'azione sismica dipende dalla massa dell'edificio e quindi se si riesce ad alleggerire il fabbricato sono minori gli effetti che l'azione sismica ha sul fabbricato stesso. Per fare questo è buona cosa intervenire in modo completo, cioè pensare l'alleggerimento come anche un'occasione per i miglioramenti anche di tipo energetico del fabbricato, quale ad esempio la sostituzione di quelli che sono i pannelli di tamponamento, che sono gli elementi molto pesanti, di solito in muratura, che avvolgono l'edificio, con materiali più leggeri, ad esempio pannellature in legno che devono essere poi collegate alle strutture, e sicuramente materiali che sfruttano la leggerezza anche come elemento per migliorare le prestazioni tipo energetico nonché quelle acustiche, altro aspetto di grande importanza oggigiorno. E poi c'è tutto il parco costruito che riguarda i capannoni industriali, che sono quelli, ahimè, che durante il terremoto dell'Emilia sono crollati, e meno male che era notte, perché sennò chissà quanti morti avremmo contato. Lì c'è tutta una tipologia di interventi tecnicamente diversa, adesso non abbiamo tempo di entrare nei dettagli, ma vorrei capire se è più o meno critico intervenire su queste strutture rispetto al comparto abitativo come prima cosa. Dal punto di vista della sicurezza, purtroppo il terremoto dell'Emilia ha mostrato come intervenire sulle zone industriali sia un'assoluta necessità e una necessità urgente, perché le criticità che sono state evidenziate dal terremoto, che per la prima volta ha colpito una zona industrializzata in Italia, nei terremoti precedenti questo non era accaduto, ha mostrato come queste strutture, se non costruite con criteri antisismici, siano veramente vulnerabili. Dall'altra parte abbiamo però il vantaggio che sono strutture sulle quali è più facile intervenire, perché ovviamente l'involucro è molto più semplice, le strutture solitamente sono nude, sono scoperte, sono a vista, e quindi anche, l'abbiamo visto qui in Emilia, molti imprenditori hanno già nei primi 4 mesi sistemato i loro capannoni, preparati anche ad essere resistenti, nonché anche migliorati anche dal punto di vista proprio delle prestazioni energetiche. Occasione sempre questa da tenere in conto. Molto rapidamente volevo capire se ci sono in generale delle tipologie di edificio più a rischio di altre. Sono più a rischio le vecchie case di pietra magari del 800, inizio 900, sono più a rischio i condomini degli anni 60-70, e se in generale ha senso intervenire in termini di costi-benefici su che popolazione di edificio, se in certi casi non è meglio insomma intervenire col bulldozer anziché con il pennello. Ma la storia ci dice che i centri storici sono centri storici perché sopravvivono e sono sopravvissuti ai terremoti. Quindi la prima risposta, ma è ovviamente un po' banale, quella di dire i centri storici si possono danneggiare perché danni li abbiamo avuti, ma tipicamente hanno resistito meglio di costruzioni più nuove. Sicuramente abbiamo ritrovato decisamente critico l'aspetto delle costruzioni realizzate tra gli anni 60 e gli anni 90, e questa è una fascia purtroppo nella quale abbiamo costruito per moltissimi anni e si è costruito non bene. Questo non parlo solo dell'Emilia, ma in tutta Italia. Quando si parla di costi-benefici, sicuramente questo è un aspetto da tenere in conto, nel senso che intervenire su un singolo edificio, se è sufficiente adeguarlo, probabilmente conviene intervenire, sistemarlo e in poco tempo si ha una costruzione nuova, pulita. È buona cosa, a mio parere, valutare anche la possibilità, soprattutto quando si ha a che fare con zone degradate dal punto di vista urbano, vedere se in questi casi non è più conveniente proprio per la comunità intervenire demolendo e ricostruire con i criteri moderni. Grazie Marco Savoia. Grazie a voi. Bene, per questa sera ci fermiamo qui, ma domani sera torniamo a parlarvi qui da Bologna, dal SAIE di sicurezza sismica. Per intanto buona serata.